Si procede, riconoscendo i traguardi raggiunti dai nostri predecessori, eccitati e divertiti, accettando la buona e la cattiva fortuna insieme, le rose e le spine, come si dice, la variopinta sorte comune che tiene in serbo tante possibilità per chi le merita, o forse per chi è fortunato. Sì, si procede, e il tempo pure procede, finché si scorge di fronte a sé una linea d'ombra che ci avverte che bisogna lasciare alle spalle anche la regione della prima gioventù.